Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Allora, i titoli. Partiamo da Italia sommersa, un'Italia del futuro sott'acqua. Ecco, poi cambiamo aria, è il titolo di un libro, L'aria che respiriamo. E poi vi portiamo a Cervellopoli, un viaggio a fumetti nel nostro cervello. Bene, partiamo. Ecco, adesso viene fuori anche questo problema, sott'acqua. Eh sì, perché è stato recentemente pubblicato uno studio che mostra che nel futuro, in un futuro non dietro l'angolo, ma comunque prossimo, parliamo del 2100, l'Italia... buona parte delle coste italiane saranno sommerse. Ne parliamo con chi ha coordinato questo studio, Fabrizio Antonioli, ricercatore dell'Enea. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Ma siamo sicuri? Direi che siamo relativamente sicuri. Ciò che abbiamo pubblicato infatti ha un margine di errore, ma insomma il margine di errore più basso è un sollevamento medio di circa 50-60 centimetri, quindi su questo siamo sicuri. Sul dato più alto anche mediamente siamo intorno a un metro al 2100. Quindi si dovrebbe alzare, stando agli scenari attuali, di circa un metro il livello del mare. Ogni area italiana è soggetta non solo al sollevamento del mare, perché si sciogliono i ghiacci e fa più caldo, o per calore si espande l'acqua della superficie del mare, ma anche perché ci sono dei movimenti della costa in abbassamento e innalzamento. Questi movimenti, che si sommano al mare che sale, fanno sì che in ogni punto delle coste italiane ciò che è atteso come sollevamento del mare in centimetri è molto diverso. La questione è abbastanza complessa. È composita. Va bene, dov'è che va peggio? Va peggio nell'Adriatico nord-occidentale, e cioè un'area molto vasta che parte dalle lagune di Grado e Marano e arriva a Ravenna, perché in quest'area insistono dei movimenti che nulla hanno a che vedere col clima, ma che abbassano buona parte della costa, ma anche la parte più interna, e quindi è tutto un grande abbassamento, e invece il mare si solleva in maniera similare, uguale in tutto il Mediterraneo. Quindi queste sono le aree più diciamo così a rischio. Più o meno si può valutare un'area che al 2100, se non facessimo niente per arginare quello che sto dicendo, potrebbe avvicinarsi ai 5.000 km quadrati, che non è poco. Anzi, assolutamente. Quindi non è solo Venezia vulnerabile. Venezia, insomma, siamo già abituati al fenomeno dell'acqua alta, quindi non solo Venezia finirà sott'acqua, ma un'area molto più estesa dell'Italia. Lei diceva, se non facciamo nulla per evitare. Quindi per evitare tutto questo cosa si può fare? Allora, le cose sono due. Uno, cominciare a metterci in testa di emettere meno anidride carbonica, e mi sembra che con le ultime riunioni a Parigi qualche passo avanti, mi riferisco alla COP21, sia stato fatto. Bisogna vedere quanto i vari stati che hanno aderito a questo patto saranno poi in grado di rispettare quello che hanno detto, e quale poi sarà la risposta del pianeta al fatto che andiamo tutti in macchina elettrica o che ci riscaldiamo con la geotermia, tra virgolette, e quindi emettiamo meno anidride carbonica. In quanto tempo sarà l'effetto di deassorbimento, e quindi... Quello è il punto, no? Esatto. Ecco, però tornando alla domanda di prima, insomma, ci incuriosisce sapere se costruendo dighe, utilizzando idrovore, in qualche modo si riesce a contenere questa avanzata del mare o no? Io posso dire questo, che già oggi in Italia... ci sono parecchie aree che si trovano sotto il livello del mare, poco a sud di Roma, per esempio è la Piana di Fondi, nota perché c'è uno dei mercati ortofrutticoli più grossi del mondo, e lì il suolo arriva a meno 3 metri, e se non ci fossero delle grosse e costose idrovore, delle dighe, la buona parte delle coltivazioni agricole che si trovano nella Piana di Fondi non ci sarebbero, sarebbero allagate dal mare. Quindi sì, è possibile, diciamo, entro certi limiti, però se il mare si solleva di un metro e mezzo, mareggiate o alte maree particolari passano ben oltre quello che noi immaginiamo, quindi si dovrebbe cominciare a pensare di fare opere abbastanza gigantesche che non credo che possano essere prospettate per tutte le aree italiane. Fabrizio Antonioli, forse l'abbiamo dato per scontato, però forse è il caso di ricordarlo, tra l'altro il problema dell'innalzamento del livello del mare non è un problema circoscritto all'Italia, è un problema globale. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È molto più sentito in aree mediterranee che non in altre aree del mondo, anche se il problema, come giustamente lei dice, è globale, è pieno di, ci stanno centinaia di città dove vivono milioni di persone che sono costruite sulla costa, ai delta dei fiumi e via di seguito, ma nel Mediterraneo perché il problema è e sarà molto più sentito? Nel Mediterraneo noi abbiamo condizioni di marea quasi uniche al mondo, noi abbiamo 30-40 centimetri di marea, anche meno, pochissimo, rispetto ai 12-15 metri di marea che hanno solo in Normandia o ai 18 che hanno nel Canada, quindi noi ci siamo avvicinati a un metro dalla costa per questo motivo, cosa che non succede né in Normandia né nel Canada, e quindi adesso siamo inguaiati con città, turismo, ponti, ferrovie e via di seguito. Basta poco per creare danni, esatto, qui da noi. Esatto. Credo infatti, per quello che ne so io, che la soluzione sia adeguarsi a vivere diversamente questi territori, non certo pensare di fare dighe che fermino. La soluzione sarebbe quella di cominciare a pensarci. Ah beh, certo, a priori. I nostri hanno dei dati specifici che ci dicono che se riusciremo a stare sotto i 400 ppm di anidride carbonica, il sollevamento del livello del mare, che è uno dei tanti problemi che noi avremo, dovrebbe cominciare a non salire nei termini di cui vi ho parlato. Insomma, abbiamo ancora qualcosa da fare, buon lavoro a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Antonioli. C'è acqua sulle strade, ce lo dirà. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, lo sapevi che il ficus o la gerbera purificano l'aria in casa? Ficus è una pianta, la gerbera è una signora, gerbera che viene e apre le finestre. Non... Parliamo di piante. Ah, è una pianta. E soprattutto parliamo di una serie di cose che possiamo fare per migliorare l'aria che respiriamo. In particolare in casa? Esatto. Ma perché in particolare in casa? Perché è uno dei focus sui quali va un bel saggio che è uscito. Abbiamo qui l'autrice. Cambiamo aria è il titolo del saggio, Margherita Fronte è la coautrice. Buonasera Margherita. Buonasera. Coautrice insieme a... Pier Mannuccio Mannucci è già direttore scientifico del Policlinico di Milano, grande esperto di inquinamento. Un libro molto, molto interessante, tra l'altro ricco di esempi per respirare un'aria migliore dentro e fuori casa, perché quando parliamo di inquinamento a quanto pare non è un problema che riguarda solo le strade, solo l'esterno. No, infatti assolutamente, anzi se noi pensiamo che trascorriamo negli ambienti chiusi circa il 90% del nostro tempo, viene da sé che in realtà la maggior parte delle sostanze alle quali siamo esposti le assorbiamo e le respiriamo appunto in luoghi indoor. E com'è che noi possiamo peggiorare, non perché vogliamo farlo, ma com'è che succede che senza saperlo possiamo peggiorare le condizioni ambientali interne, appunto, in casa, per sì, esempio. Sì, perché succede che in casa agli inquinanti che penetrano dall'esterno, quindi quelli dello smog tipicamente, si sommano una serie di inquinanti che noi produciamo attraverso una serie di attività apparentemente innocue, per esempio si sviluppano dai detersivi per pulire la casa, da vernici, da pitture, da mobili, da prodotti per il bricolage, anche da alcuni prodotti cosmetici. Dallo smalto, gli indurenti per unghie per esempio ne emettono una serie di composti che vanno in generale sotto la sigla COV, che sta per composti organici volatili, e che sono irritanti per le vie aeree, e alcuni sono anche cancerogeni, insomma possono provocare danni alla salute. Però comunque lanciate un messaggio positivo, perché in sostanza ci comunicate il fatto che non è vero che non si possa far nulla, cioè cambiare aria in qualche modo dipende anche da noi, quindi dentro casa cosa possiamo fare? Una casa inquinata da una casa che non lo è si distingue principalmente per il fatto dalla presenza o meno di un fumatore. Il fumo di sigaretta emette moltissime sostanze tossiche che, come sappiamo, rimangono nell'ambiente, e questo accade anche se una persona ha l'accortezza di fumare fuori casa, magari va sul balcone, però il problema è che quando poi ha fumato i suoi polmoni continuano ad emettere sostanze tossiche per alcuni minuti dopo che ha spento la sigaretta, quindi gli rimangono attaccati addosso. Insomma, il fumo di sigaretta è il principale inquinante degli ambienti indoor. Ci sono poi una serie di accortezze anche per chi non fuma, insomma la prima è cambiare aria, per l'appunto, cioè riaggiare la casa almeno due volte al giorno per mezz'ora, soprattutto magari nei momenti in cui non c'è troppo traffico sotto casa, perché sennò si rischia di ottenere l'effetto contrario. Esatto, infatti. Ci sono poi alcune piante anche che aiutano a ripulire la casa dagli inquinanti, sono la dracena, l'aloe, il ficus, le gerbere, sono tutte piante che però devono essere un po' rigogliose, perché se sono un po'... se uno non ha proprio il pollice verde non funziona molto. La solita fogliettina smorta. Ma d'estate in particolare, quando usiamo i condizionatori per rendere più confortevole la temperatura che abbiamo in casa, potremmo rendere i condizionatori dei complici di un'aria migliore? Sì, ci sono dei filtri che sono proprio filtri elettrostatici ad alta efficienza che riescono a contenere particelle anche molto fini, anche di 0,3 micron, quindi molto fini, e che appunto trattengono polveri ma anche pollini, acari, altri inquinanti che insomma possono dar fastidio a chi vive negli ambienti. Senti un'altra cosa, Margherita, tanto ricordo che tu sei caporedattrice a Focus. La cucina a naso è un posto con il quale bisogna avere piuttosto conoscenze, insomma, per riuscire a gestirla al meglio dal punto di vista dell'inquinamento. Sì, assolutamente sì, perché allora in generale tutto ciò che brucia produce degli inquinanti, e fra ciò che brucia c'è anche tutto ciò che ha una combustione, quindi in realtà anche i fornelli e ciò che noi cuciniamo. E in particolare quando noi cuciniamo si sviluppano una classe di composti che si chiamano idrocarburi policiclici aromatici, che sono moltissimi, sono centinaia di molecole, e che insomma non fanno proprio bene alla salute. Alcuni di questi fra l'altro rimangono anche attaccati sui cibi, sono il bruciacchiato delle carni, così come rimangono sui cibi in microparticelle si sprigionano nell'aria e le respiriamo. Allora la cosa migliore è anche in questo caso aprire le finestre, a meno che uno non abbia una cappa veramente molto efficiente, allora in quel caso può bastare anche la cappa, però solitamente il consiglio è di aprire le finestre, sì, è meglio. Sì. E a proposito di cose che bruciano, a volte si accendono gli incensi, i bastoncini d'incenso, proprio per rendere l'aria più profumata, più gradevole, ma in realtà non è un'idea, non è una soluzione buona. No, assolutamente no, anzi i bastoncini d'incenso sono forse l'unico oggetto che inquina più delle sigarette, in particolare emettono benzene, il benzene è un cancerogeno e ne emettono veramente tanto, per cui anche se l'abitudine è tutto sommato poco diffusa, nelle case in cui c'è questa abitudine i livelli di benzene possono essere davvero molto molto alti, quindi attenzione, bastoncini d'incenso è proprio meglio proprio non usarli, ecco, anche aprendo le finestre insomma i livelli rimangono alti. Insomma c'hai indagato l'audience buddista, ma va bene, però se bisognava dirlo. Comunque, insomma, sono tanti i consigli che potete trovare nel libro edito da Baldini Castoldi, Cambiamo aria. Ricordo che la prefazione è di Umberto Veronesi, e proprio dalla prefazione voglio citarvi una frase: respiriamo circa 20.000 volte in una giornata, dunque la buona o cattiva qualità dell'aria fa la differenza in termini di salute e malattia. Grazie Margherita Fronte. Grazie a voi. Ciao Margherita, buon lavoro. Ciao. E se Margherita Fronte ci ha dato dei consigli utili per migliorare l'aria che respiriamo, adesso ci colleghiamo telefonicamente con Matteo Farinella, neuroscienziato alla Columbia University di New York, che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta del nostro cervello. Buonasera Matteo Farinella. Buonasera a voi. Cervellopoli, anzi benvenuti a Cervellopoli, è il titolo del suo ultimo libro, un libro per ragazzi, per ragazzi e ragazze, edito da Editoriale Scienza. Un bellissimo libro, devo dire, da sfogliare oltre che da leggere, perché è un libro illustrato, un libro a fumetti. Io ho appunto una formazione scientifica, ho sempre avuto passione per il fumetto e l'illustrazione, quindi è da qualche anno che cerco di combinare due cose facendo divulgazione scientifica a fumetti o illustrata. Avevo già pubblicato un primo libro, Neurocomic, per un pubblico più adulto, Introduzione al cervello, e questo qua appunto è il tentativo di portare gli stessi concetti a un pubblico più giovane. Senza svelare troppo a chi è in ascolto, infatti Cervellopoli nel suo libro In Cervellopoli le trasforma il cervello in una sorta di città, e Ramon. E Ramon appunto è questo giovane neurone che deve decidere cosa fare da grande, quindi la scusa è quella di andare in una specie di gita scolastica della città per vedere i vari quartieri e vedere i vari lavori a disposizione. Ma l'idea appunto è quella, non di avere un professore che spiega come è fatto il neurone, come è fatto il cervello, ma mostrare un neurone come personaggio che appunto deve imparare cosa fare da grande. È tutto molto più in metafora. Alla Columbia University si sta proprio dedicando ad un progetto di ricerca per capire in che modo i fumetti possono essere di aiuto nel comunicare la scienza e nell'apprendere la scienza. Sì, esatto, è un progetto nuovo, ho iniziato solo settembre dell'anno scorso, ma l'idea è proprio quella di cominciare a studiare un pochino più scientificamente questi nuovi mezzi. Fumetti e animazioni scientifiche sono sempre più diffuse, ma non sappiamo molto su come contribuiscono non solo all'apprendimento ma alla percezione della scienza. Io personalmente sì, sono convinto che sia un ottimo mezzo, ovviamente. Anche perché di fatto lo scienziato, la scienziata ha sempre fatto uso, ha sempre fatto ricorso a illustrazioni, diagrammi, mappe, immagini, anche nei paper, anche nelle pubblicazioni scientifiche, insomma non troviamo solo testo, le immagini a volte sono utilissimi. Esatto, esatto, infatti sì, l'illustrazione è sempre stata in realtà centrale nella fase di divulgazione della scienza, della comunicazione della scienza, anche tra scienziati. Però poi per qualche motivo l'illustrazione scientifica si è specializzata in alcuni formati particolari come diagrammi, mappe, grafici e questi nuovi mezzi quindi di illustrazione per un pubblico più vasto come il fumetto, come il libro illustrato non sono stati molto sfruttati, diciamo, e soprattutto non sono stati studiati e io sono convinto che possano dare un contributo importante. Diciamo che il fumetto e altre rappresentazioni visive possono quindi in qualche modo migliorare la stessa didattica della scienza. Un esempio l'abbiamo avuto recentemente in Italia con i manga della scienza che sono stati pubblicati dal mensile Le Scienze. Sono già in realtà varie ricerche non specifiche sul fumetto ma sulle immagini dei testi scientifici e un'altra tutta serie di ricerche in campo della psicologia sull'effetto della narrazione. Quindi su come storie e narrazioni possono cambiare la percezione di un argomento, possono coinvolgere il lettore. Quindi la mia idea è di combinare questi due campi nello studio del fumetto. L'idea è quella molto semplice di presentare la stessa informazione tramite un testo, un breve testo, che potrebbe essere un articolo di divulgazione scientifica, e lo stesso testo tradotto in fumetto e poi misurare non solo l'apprendimento, come dicevo, ma anche altre variabili come la percezione, l'interesse in questo argomento, quanto per esempio qualcuno vuole leggere ancora sull'argomento. E ovviamente perché appunto l'immagine hanno sempre aiutato nella divulgazione scientifica. In particolare il fumetto può fare molto uso anche di metafore visive, quindi può comunicare esattamente quello che comunica un testo, ma l'immagine aiuta ad aggiungere un livello ulteriore, quindi ad approfondire, rinforzare un concetto. O rendere più familiari e più vicini anche concetti astratti. Una curiosità a proposito, esatto, del suo libro, Benvenuti a Cervellopoli, sfogliandolo si ha quasi un po' la sensazione di fare un viaggio indietro nel tempo e di essere catapultati, questa è la sensazione che ho avuto personalmente, in quella serie che era in voga, famosa negli anni Ottanta, cioè Esplorando il corpo umano. Mi fa piacere, sì, tanti hanno colto il riferimento. Io appunto, essendo bambino negli anni Ottanta, sono cresciuto con quella serie, anche contribuito alla mia scelta di studiare biologia più avanti, e no, secondo me è un capolavoro di divulgazione scientifica, e quello che ho cercato di imitare soprattutto è appunto l'uso delle metafore visive, quindi quando possibile mi piace inserire la scienza non in una spiegazione, ma proprio nei personaggi, nelle ambientazioni, in modo che magari, anche se non è immediatamente esplicito quello che sto cercando di comunicare, in qualche modo spero che il lettore assorba questi concetti in maniera quasi involontaria, e più avanti, quando si ripresentano, l'immagine del personaggio, la forma del personaggio torna in mente. E allora Matteo Farinella, buon lavoro, e a voi in ascolto, benvenuti a Cervellopoli. Grazie. Abbiamo solo 4 secondi, Simona. E usiamoli per ricordare a chi è in ascolto l'appuntamento con sabato prossimo. Buona settimana a tutti. E a tutte. Un ultimo fondamentale passo per l'umanità. Dopo l'avvento dell'anestesia, della luce elettrica e del vaccino antipolio, resta un'ultima sfida da vincere. Eliminare il frastuono del macinacaffè nei bar. Mebius, la trasmissione di scienza di Radio 24, presenta il primo Reduction of Noise Award, la prima edizione del premio per la riduzione del rumore. Inventori, inventrici, avete tempo fino al 30 giugno per tirare fuori le vostre idee più vincenti. Tutte le info alla pagina di Mebius su radio24.it.